mente spiacevole della tradizione. La quantità delle volte in cui ciò avviene perde di importanza di fronte al come. Ripensare alla storia solo per non sentirsi in colpo è pericoloso. Come ripetere a memoria una preghiera in una lingua sconosciuta, pedagogicamente dannoso. Ricordi, dimentica, processo naturale, il quale è portato all'estremo perde l'organicità che lo rende coerente a livello morale. Io voglio stare a guardare, manifestare, votare, studiare, ignorare, smettere di parlare o traslare nell'economia delle mie forze la memoria che perde autonomia a livello sociale. Vuole che le porti il menù? No, grazie, l'ultimo che ha detto senza salsa piccante per non cagare male. Oh, scusa, ah, c'era prima lei, prego, permesso. No, vabbè, se l'ultima del pacchetto fa lo stesso. Troppi pigri, timorati, con abitudini come vicoli ciechi. Che la tua patia morale d'abuso del divano dipende da TV o THC, cosa vuoi che me ne freghi? Rimane il fatto che sei pigro e vuoi sedativi leggeri anche per i sensi di colpa. Mentre io penso all'olocausto come al piacere dell'orgasmo da solo. Ma cosa significa da solo? Se il pensiero è un dialogo interno, la solitudine la prova solo chi non ragiona. Ma guarda caso che cerca di non affrontarlo perché la sente come una padrona. Magari applicando con un mezzo esterno moderno la rammemorazione, entrando nella dimensione digitale dell'informazione, seguendo grilli urlanti. In tanti sanno i complotti di pochi, pochi non giudizio politica autonomo, ma un blog è comodo e ci scrivono in tanti. Bleh, qui c'è puzza di politica, altro che deodoranti concettuali. Voilà, adesso apro la finestra e respiro un cocktail olfattivo di gas di scarico ed aria.